girare il computer, no? È stato contentissimo, io ho preso la metà. Mischino, di tutto, quindi gli è costato 100 euro a quello, tra una cosa e l'altra. Io l'ho scostato. Ma io gli ho fatto, perché ho fatto due la mia amica, se no uno di 50 gliel'avrei fatto. Ma 50 andava benissimo, ho fatto bene. No, a cacchio di cane, come gliel'ha fatto... L'ha portato lì a Rauchan, mi sa. Non mi ricordo dove. No, beh, comunque. Sono stati contenti, sono delle... Ma te voglia, no? Cappa. No, questo che stavo dicendo l'ho visto stasera che entravo dall'ufficio e ho visto un grande cartellone dietro la vetrata. Ti ricordi dove c'era prima Romano Luccia? Lì. Chi? Romano? Romano Luccia. C'erano prima lampadari e altre cose. Praticamente all'angolo tra via di Trieste e via Principessa Yolanda. Capito. Quella roba. Sono parte di sabato, però sono soldi in giro, pochi. C'è una cosina. Poi sono due tablet da riparare, devo dire questi. Poi ho un PC in vendita, tutto formatato e fatto. Ti regalo lo voglio, capo. Ho detto, a me non le vanno le spese, i pezzi che ci ho rimesso io, poi il resto non mi interessa, non ci voglio guardare niente. Cappa, se vuoi un po' di materiale, se c'hai voglia e tempo di cosa, di riassemblarti, ti do un po' di materiale, potresti riuscire a risistemarne qualche uno funzionante e poi te li vendi. Qualche spicchio lo penso che si possa riuscire a fare. Non ce ne ho forse una decina, anche qualche monitor di quello a tubo cattolico. E stavo pensando addirittura di cose, portarli alla differenziata, però se ci serve qualche case te lo do. Se me lo porti sì, vediamo un po', mi vorrei fare un fisso, anche diciamo se riesco a far andare almeno per scaricarmi i programmi, poi se mi dà problemi va a Napoli, perché io uso il mio, quello del portatile, velocissimo, qua. Con quello ci lavoro alla grande, poi per vedere le cose non ho nessun problema. Se me li vuoi portare, o mi dici dove sei, ci troviamo, vabbè sono in moto, ma comunque c'ho qualche amico, no, in macchina, se me lo dai qualcuno, certo che lo accetto, poi vediamo un po' come riesco a farne. Mi servirebbe anche, no? Se ce l'hai, pure a disk anche da 20 giga o da 10, ma se la metti è meglio, di quelli grandi, però attacco leader. Sì, di quelli te ne do un paio. Ma ti fai una cosa, quelli che è anche più facile da trasportare, quelli me li posso portare appresso. Ne ho alcuni che avevano anche difettato però tempo fa, però non ho mai avuto il tempo di cercarmi i software delle case produttrici, no? Che a volte riescono un pochettino a risistemare le tracce, a riportarlo, a allungargli un pochettino la vita. Quindi potresti probabilmente riuscire a recuperarlo qualcheduno. Comunque ne ho un paio. Mi porta presto e casomai è la prima occasione che ci sentiamo per radio, prendi la moto e vieni qua sotto casa e te li do. Ok. Ciao, guarda, una domenica stiamo permettendo, guarda domenica mi sarà messo acqua. Ci troviamo a quadrato, io avete già, c'ho la Gianni, sapevo. anche se libero ovviamente, così anche lui si potrebbe fare un caffettino con Claudio e poi non so, per sapere, vediamo un po' se riusciamo ad assemblare. No, il mio monitor non deve essere, c'ho il monitor a schermo piatto io, ma ragazzo, una mia amica piccola, no, non mi va bene. Le cose le ho comprate a tela attacco USB, perché ce l'avevo, l'avevo comprata e poi l'avevo guardata la sua ragazza che praticamente si era rotta la sua del portatile, mi è accaduto non so Coca-Cola, non so che cosa, e non andava più. Allora gli ho dato questa tastiera esterna, come l'ho comprata gliel'ho venduta lì, poi dovevo comprare un'altra, forse da servire, ma quando hai la disponibilità non c'è problema. Sì, allora mi devo semplicemente ricordare di prenderli tutto lì, perché molto spesso arrivo in ufficio pieno di buone intenzioni, poi inizia l'assalto dei colleghi e ti chiedono 50.000 cose e inizia a seguirne uno, poi l'altro, eccetera, eccetera, insomma si trova poi alla fine della mattinata che le cose che ti devi promesso di fare in caso mai non le fatte stanno presso altre cose, per carità divina, è sempre il lavoro, però a volte così concitato non permette di ottimizzare al massimo il tempo, ma queste cose le avevo comunque messe da parte, quindi detto prima o poi troverò il tempo per romantica, catasso, hard disk e altre cose, e quindi penso che valga la pena assolutamente riuscire a sistemare. Tra l'altro dovrei avere anche uno o due casi, quindi anche per macchine che sono già un po' datate, però che hanno bisogno di questi particolari artisti, potrebbero essere più utili. E gli altri case invece proprio stamattina ce li ho la sede distaccata, li devo mettere nella macchina e devo portarmeli qua a casa, poi quando ce li ho qui a casa li posso poi passare. Non so, le condizioni chiaramente non sono ottime, perché di volta in volta accoglievo dei pezzi che mi potevano servire per chiamare un altro computer che aveva un altro problema, quindi bisogna di fare un po' di taglia in colla o duca, però potrebbero essere utili, sempre meglio che buttarli direttamente alla differenziata, caso poi qualche cosa riesce a tirar più fuori e buon per te nel caso. Ah, oh, vabbè, il problema è non ci ho, non mi serve per farmi un fisso, no? Come magari adesso, anche se quanta memoria avrà di Arbis 40, non so, ci schiaffo sopra l'estremo pratico Windows 7, così mi faccio un fisso per scaricarmi i programmi. E in più con un altro hard disk esterno lì mi posso salvare tutto, cioè con due hard disk praticamente, no? Poi una cosa del genere. Adesso vediamo, comunque già cerco di fare il sistema, così un buco lo trovo per mettere il fisso, fatto il monitor è piccolo, quando c'è uno schiaffo magari sotto, sotto il mobile, perché si vedrà tutto di bere la RAM, perché c'è poca RAM in un casotto, non va, rimano, guarda, un 2 giga, che siamo partiti con Windows 7 un premium, su quello dovrebbe andare, perché l'altra volta da poco mi è dato un ragazzo da sistema operativo XP con 512 MB di RAM, allora gli ho messo il sistema operativo Windows 7, tutto a posto, faccio la scarica di tutti i programmi, ma la materia di licenza, schermata strana, boh, tipo come se non accettasse la licenza, non so, non l'ha mai fatto, io faccio i portatili così. E quello lì, due volte, tutte le volte, l'ho fatto lo stesso gioco. Alla fine ho detto, ah boh, torno, buonanotte, non ci porto più tempo, perché tempo ho perso, e ci ho perso un bel po' di ore. Ma se ti serve aggrossare un computer perso solo per scaricare, è inutile che tu ci metta Windows 7, scusami. Te lo organizzi con un sistema operativo molto più leggero e fai andare fuori l'eventuale torrent o quello che è. Ci puoi mettere un Ubuntu, ad esempio. Ce ne sono tanti altri, free, che hanno bisogno di meno hardware prestazionale e anche meno memoria. Ma XP non ce l'ho, poi con XP ci vuole anche la licenza. Ma XP non l'ho mai trattato, ma sono sincero, non me ne sono già. Con Windows 7, ma non è grande. Qualcuno mi capita XP, come magari ho un giro di RAM, sì, c'è la forma un bel lento, oppure magari con Vista, vabbè, con Vista, con 2 giga di RAM, oppure poi li metto di più leggero, ce li ho tutti i set, da starter, professional, ultimate, sia per 32 e 64 bit. Sto cercando sempre, Sabato, di andare più avanti, che magari, chi lo sa, trovo un lavoro, mi fanno pagare adesso la giornata, mi fanno stipendiare, adesso, fa quella cosa. Stavo dicendo prima, perché se devi scaricare programmi non utilizzi un altro sistema operativo, come ad esempio Ubuntu? Come? Ubuntu, non lo conosci? No. Sono sistemi operativi gratuiti, sono Linux-like come ambiente, capito? Però non ci metti antivirus, non ci metti niente, stabilissimi, funzionali al massimo, pieni di software open source gratuito, ma la particolarità di questi sistemi operativi, come ad esempio Ubuntu, risiede nel fatto che hanno bisogno, una parità di software che deve girarci, hanno bisogno di meno di minori caratteristiche hardware spinte, capito? Quindi possono girare con un pacchetto hardware anche adattato o con della memoria abbastanza dedicata in scheda video e quant'altro, e quindi permette praticamente di poter utilizzare e allungare la vita di un normale desktop, che casomai una persona sta pensando di mollare perché non ce la fa più a far girare i programmi, e quindi però si può buttare tutta l'aria e fare una crisi generale della macchina. Ecco che queste possono essere delle ultime e valide alternative. Funzionano benissimo, ma come appunto poi ce ne sono tanti altri, ci sono quelli della OpenSUSE, ci sono FreeBSD, ce ne sono tanti, tanti, però sono tutti gratuiti. In questo caso ti potrebbe essere utile per caricare eventualmente software e avere una macchina dedicata a macchina 24 ore su 24 per l'uso di programmi, senza doversi preoccupare di virus, con un hardware tutto sommato abbastanza economico. Come fai a ascoltarlo, Luca Salvatore? Infatti no, allora, siccome Salvatore è talmente fortissimo qua, l'ho attenuato, l'ho sentito uguale. Sì, ho sicuro che questo si satura a morte, Salvatore. Infatti io ho detto, faccio una prova, ho detto, tanto lo ascolti così. L'ho attenuato, a te l'ho sentito uguale, né più né meno. Salvatore, dato una regolata, dai, vedi un po'. Radio Class. Certo, cioè io faccio fatica a sentirti. Sei completamente morto, saturo a morte, non... Ho provato in tutte le maniere, ma non riesco a capirti. Vediamo un po', allora vediamo. Questo com'è? provo a scendere, sto uscendo con 7 watt, ditemi così com'è. Ma se beh, vabbè, adesso sei chiaro, adesso sei chiaro, ma prima di sa la tua morte. Prima stavo facendo delle prove con questo baracchino in 10 metri e ho girato tutta la manopola dell'RF Power per dargli i 20 watt o 25 quanti è. Ma secondo me quando è molto alto va semplicemente in distorsione. E quindi voi mi state confermando, vedi, che anche in AM e in FM è meglio tenersi, ecco qua, 6 watt, come chiama qualcuno. Così va bene? Ma ecco, con la buonasera. Sì, mia Sandro, ciao Sandro, sì, adesso va benissimo, tu mi dici dove è 10 metri, sono tutta la sera in 10 metri, non ti ho sentito da nessuna parte, va bene, allora con vostro permesso faccio entrare a Sandro, così approfittiamo, avanti Sandro. K, buonasera circolari, Claudio, ho fatto un altro abbinamento, cosa ti sembra? Questo del 60 con la radio che hai, ottimo abbinamento, è uguale all'85, ti do di più, l'85 sempre rispetto al 60 ha un po' più di acuti, però come timbrica di modulazione è buona anche questa, simile all'85 con meno acuti praticamente, più bassi ma molto bella anche questa, l'85 mi piace sempre di più, ha più acuti. Capola, va bene, va benissimo, ok, mi sembra che c'è Luca e poi mi sembra Salvatore se non sbaglio, anzi ciao saluto, ben sentito, no, Salvatore. Eia, ciao Sandro, ben sentito. Non mi sono sbagliato, vero Sandro? Oh, spero tutto bene, spero tutto bene. No, claro, io sono ritornato dall'ufficio che erano le 8:10. Siamo mangiati una pizza qui a casa e ho fatto la prova 5 minuti prima di fare un giro qui sul 5. E quindi boh, sarà una prova, l'avrò fatta mezz'oretta fa. 28.4.92 che c'era questo Papa Yankee Charlie 2, ecco, non so che cosa, o due Charlie, ecco, stavo provando ad agganciarlo con questo, con il vantaggio del Lincoln, ma chiaramente non sono riuscito a prenderlo, capito, e ho lasciato perdere. No, io ero 4.85, c'era la Bolivia e ho, infatti stavo provando le 7.000, non ti dico cosa mi ha detto, lasciamo perdere. Mi sono sbagliato Sandro, sì, no, non mi posso essere sbagliato, non mi posso essere sbagliato, è quello il microfono, no? Sì, l'hai azzeccato, l'hai azzeccato in pieno, già è lui, capito, già è lui, no, era... Più che altro ho detto ma voglio provare, voglio vedere, diciamo, per vedere un attimino, ma no, anche io diciamo non avevo dubbi che potesse, diciamo, portarlo, diciamo che porta un po' di tutto questo trattore, diciamo, dai, anche se lo stiamo offendendo. No, quello non è stato quello, l'ultima radio, sa, ma te l'ho letto, tutti i microfoni della Kenwood sposano bene con quella radio, sposano benissimo, a differenza che l'85 avendo un po' più di spinta, quindi secondo me la regolazione spinge di più, però come timbrica di modulazione diciamo che sono simili, quello là c'è più acuti, però ha un effetto presenza per la tua modulazione molto molto molto bella, a me piace moltissimo. Questa è simile a quella lì con meno acuti, però spinge bene, molto chiara, molto presente, sa, quindi puoi usare uno e l'altro, non ci sono problemi, a tuo piacere, capito? Però per me, io dico la mia, l'85 prevale solo perché ha un po' più di acuti, più da combattimento, sente la piazza, dai, me la sento 10 minuti, ripeto Salvatore. Buonasera. E io, riprendo io, buonasera al break, sei in compagnia mia, Salvatore, Sandro da Papatango e Claudio lo Sparviero qui da Sassari. Avanti il break. No, poi io saluto tutti cordialmente, compreso te, che ti lasci il mic che farei girare, dai, dai. Ciao Gianni, ben sentito carissimo. Sandro, vai, riprendi tutta tua antenna. Capo, ok. Salutiamo anche Gianni, ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato, va bene. Diciamo che non mi trattengo molto, era giusto così per fare. Giusto per fare una prova, tutto lì. Niente, dai, vi devo salutare, che domani mattina la sveglia un po' presto, fatevi un buon QSO e tutte le prossime, dai. Avanti Gianni. Stando via sarei saluto cordialmente e ti auguro una buona giornata per domani, dai. Avanti Claudio, avanti. Ciao, sono T, ci hai dato la benedizione. Comunque ultimo abbinamento, ma te l'avevo detto, prove già fatte, tutti i microfoni, dal più piccolo al più grande, sposano bene con quella radio, benissimo. Mentre la differenza al contrario non va bene, non mi è mai piaciuta, non mi è mai piaciuta. Invece così vanno benissimo, non capisco perché. Perché se Kenwood va bene con X, X deve andare bene con Kenwood. È una matematica, non è un'opinione. Invece c'è sempre qualcosa che non va, o come timbrica, o come... c'è sempre qualcosa che non va. Le ho provate tutte, infatti te l'ho detto. Non tu mi hai detto, devo provare, provalo. Perché sicuramente va bene. E l'abbinamento è giusto, la spinta è buona, la timbrica è buonissima, l'effetto presenza c'è tutta, l'85 rispetto al 60 è un po' più di acuti, che a me piace sempre perché è proprio da combattimento. Questo è più rilassante, però molto molto chiaro, molto spinta, molto forte come radio, va bene. Un abbraccio Sandri, fatti sentire, siamo qua. Luca è andato a mettersi il giubbotto che c'è freddo, quindi Salvatore prendi. Ciao Sandro, carissimo, a risentirci a presto, buon tutto e buon proseguimento di serata e buon travago per domani. Comunque, il fatto dei microfoni Kenwood, non so se hai notato, in tutte le brochure tendono sempre a specificare continuamente che la loro tecnologia è mirata a riprodurre il famoso e quanto apprezzato tono Kenwood, e quindi l'audio l'hanno da sempre curato così tanto che per questo che non mi meraviglia che l'hardware microfonico dei Kenwood si sposi bene con le altre radio e non viceversa. Salvatore, ma non c'è ombra di dubbio, sono d'accordissimo con te, perché già negli anni che io iniziai col primo MC60 avevo il 430, quindi il primo 430 l'ho comprato a Mario Notari, perché inizialmente avevo la linea completa del 757, ho uscito il 757 GX2, però io avevo la linea del 757. E il suo microfono originale del 757 era e attualmente senza discussione sempre il numero uno rispetto all'MD100, all'MD200, che ne facciano quante ne vogliono, ma l'MD1, B8, C8 rimane sempre appresso all'MC60, che è rimasto il numero uno dei microfoni della Yaesu e il numero uno dei microfoni della Kenwood. Non ci sono altri microfoni che possono batterli, per la mia timbrica e sento anche quella degli altri, non ce n'è. A differenza degli altri microfoni che tutti hanno cercato di MC85. Tu l'MC85 lo puoi abbinare su qualsiasi tipo di radio, ICOM, Kenwood, Yaesu, ma addirittura tornando indietro alle vecchie radio valvolari e non, come il 101 ZD, come il 101 Digital che io ho, come tutte le linee immaginabili, l'85 prevale sempre, perché come hai detto tu, la Kenwood ha curato talmente tanto l'emissione di questi microfoni, io anche l'MC50 che non è preamplificato, se io uso l'MC50 qua sul 430 devo solo rispetto all'MC60 tirare un po' più su il mic gain, ma non cambia niente, la modulazione rimane sempre questa, perché hanno curato talmente tanto, ma tanto le capsule che hanno il circuito di preamplificazione dei microfoni, quindi l'adattamento Kenwood su qualsiasi tipo di radio. Non ci sono cavoli. Sandro, abbinato un MC60, abbasso tutto qua perché con queste portanti a me mi irritano a cose allucinante quando stanno tattata in 2 metri, 70 centimetri, che non viene bene a dire. Quindi chiuso, non mi chiamate più, non mi cercate più. Quindi ti stavo dicendo, Sandro, abbinato un MC60 a una radio X, no? Ma se lui quella radio X dovesse fare al contrario, si accorge una differenza allucinante, capito? Allucinante. Non ho mai capito il perché, con tutta l'esperienza che mi sono fatto sui microfoni, abbinamenti tra Kenwood, ICOM, Yaesu, Standard, cosa ti posso dire? Chi più ne ha più ne metta, perché ho usato tantissime radio. Essere, non essere radioamatore, non ho mai avuto un baracchino negli anni che modulavo, mi sono sempre piaciuti a vedere, ma non li ho mai usati, quindi non capisco il perché sia l'attore. Hai detto molto bene, molto bene, la Kenwood è imbattibile sull'emissione microfonica e non ci sono dubbi su questo. Sì, evidentemente anche quella è stata una cosa per contraddistinguere nella loro fetta di mercato quello che sono determinati prodotti e avere ed essere e diventare a quel punto anche un punto di riferimento. E vabbè, belle cose. La cosa che mi continua a stupire, e poi rilancio l'amico Gianni perché sennò lo annoiamo a morte, la cosa che mi stupisce comunque è l'assemblaggio, a vederlo esteticamente, di questi microfoni e inizia ad essere datato, no? Perché sono progetti adesso che hanno già i vari annetti sulle spalle e nonostante tutto sono pezzi che continuano a tenere il prezzo anche di seconda mano in maniera esagerata e continuano a essere prodotti così come li hanno inventati oramai anni fa. E questo la dice lunga proprio sulla bontà di un progetto e del proprio del pacchetto. Il pacchetto nato così è ottimo, va bene, lo continueremo a produrre fino a che esisteranno le radio e non fanno male. A te Gianni. Come d'altronde anche i vecchi apparati della Kenwood hanno sempre mantenuto il loro prezzo, non sono mai scesi di quotazione. Sì, belle cose, belle storie. Anche io, Claudio, tutti quelli che ho sentito sui microfoni preferisco sempre le MC60, non c'è niente da fare. Anche le MC80 va bene, ma preferisco sempre il 60, non so che, un tocco in più. Sì, mi lascio un attimo di bianco sempre se qualcuno vuole entrare. Beh Gianni, io a differenza di tanti altri ho una grande cultura su questa cosa, perché di prove tecniche proprio fatte da me personalmente, abbinamenti e controabbinamenti sui microfoni, ne ho fatto tantissimi. Se oggi io ho 5, capito? Abbiamo proprio fatto una prova con Sandro per fare delle prove, perché il mio era testato con dei cavi che lui ha delle radio, quindi sta provando quello e si è accorto che la differenza su quello che è l'emissione di banda rispetto a un MD1 è completamente diversa. È chiaro che quello 85 spinge di più, senza un dubbio, ma le mie prove sono state fatte, sperimentate proprio da me personalmente, così per prova con gli adattatori. Quando io ero il W0 avevo l'ICOM in VHF, avevo l'ICOM il 2, no, avevo il Kenwood, avevo i gemellini della Kenwood, che poi ho cambiato con i gemellini della ICOM Salvatore. Quindi avevo il 711 e l'811 della Kenwood, no? I due gemellini VHF e UHF. E chiaramente su c'era l'MC60. Uscì allora l'SM8, prima chiaramente dell'SM20 che ho attualmente, l'SM8. Ma io voglio provare l'SM8 con il Kenwood. Feci una prova e tutti dicevano, ma che microfono stai usando? L'SM8, ma l'SM8 della Kenwood, della ICO, come hai fatto a metterlo su? Ah, beh, mi sono fatto la data, lo sto provando. Proviamo in FM, proviamo in banda laterale. Quando non sento in banda laterale è una cosa spaventosa, ma non tanto la forza del microfono, quindi la presenza, perché non ho bisogno di niente per poter far sì che la presenza microfonica sia la mia o la spinta sia quella del microfono, ma non solo, gliela do anche con la spinta vocale, ma era proprio la presenza audio, no, la presenza proprio che era una cosa naturale, proprio bellissima. Da lì avevo fatto l'altra prova in HF, ero a casa di Carlo, di Chiaramonte, se tu l'hai conosciuto come W, ho detto Carlo è così, così, così, cioè, sì, ma chi ha preso l'adattatore? Io che provavo, lui era già IS0, e ha provato l'SM8 sul 940 della Kenwood, che era già uscito, allora ce l'avevo anch'io. Ma Salvatore, tu devi sentire questa modulazione. Tutti dicevano a HF, ma cosa stai usando? Hai comprato una radio nuova? No, la radio è sempre la stessa, sto usando un microfono ICOM con una radio Kenwood. E da lì sono partite tutte le prove, tutte le cose, tant'è vero che io ho l'adattatore e uso l'SM20 della ICOM anche col 430, qualcuno non si accorge neanche, però a volte lo cambio, lo uso giusto così per fare delle prove, ma la timbrica non cambia, è sempre quella. Quindi tutte queste prove che facevamo, che facciamo attualmente, sono proprio sposate. Quando io dico prova quel microfono su quella radio, vai tranquillo che spinge, è perché le prove le ho già fatte, capito se va? Sì, assolutamente. Vabbè, io ho quella di girare, prove. ne faccio un bel po'. Ecco, l'unica cosa che avrei voluto fare, sai cos'è, come prova? Fare un adattatore, perché proprio per questa radio, per il Lincoln, e mettere le cuffie e il PTT a pedale, perché adesso sto iniziando ad entrare in orario che sono le 10:05 quasi, dove l'altoparlante fa troppo rumore, e così per disturbare di meno. Vabbè, io sono così, i miei umili mezzi. Gianni, tu di umili mezzi cosa hai? Io sono proprio umile adesso, un Midland, se no, è il 980. Oh, Salvatore, senza poi dirti che ultimamente col presidente Lincoln ho attaccato l'MC60, quindi connettore, adattatore, da presi di Lico, che mi pare che sia a 5, adattatore a 8. Tu dovevi sentire quella modulazione. Mi pare che Gianni l'ha sentita, ti ricordi? L'avevo provato, te l'avevo fatto sentire il presidente Nico con l'MC60. Ah, non mi ricordo, non mi ricordo, sento talmente tanti studi, momentaneamente non mi ricordo la verità, però sicuramente sì, se l'hai usato sì. Salvatore, come mai a quest'ora? No, no, infatti stavo proprio dicendo che sono gli ultimi passaggi che faccio perché la radio è... sto usando il baracchino, capito? Quindi non posso mettermi le cuffie e pertanto c'ho l'altoparlante che fa rimbombare l'audio qua in tutta la sala e tra poco ce ne andiamo a nanna. No, più che altro ero fatto un semplice giro per dopo che ho cenato, visto che ero tutto il giorno in ufficio. E stavo leggendo una cosa qua e poi ho detto vabbè, accendiamo un attimo la radio, vediamo un pochettino se trovo qualcuno. E con il Lincoln stavo, appunto come ho raccontato prima, stavo facendo una spazzolata sui 10 metri e basta. Poi ho provato a fare una chiamata sul 5 ed è entrato Luca. Tutto qui, questa è la mia ondata, se no è difficile a quest'ora che moduli, a meno che non sia il fine settimana dove so che non disturbo, ma in ogni caso il fine settimana metto le cuffie e trasmetto con l'HF, riprendi già. Vabbè. Ogni tanto alterna, fine settimana, una settimana una settimana all'altro. Una settimana di frequenza di amatoria, una settimana da noi, che noi sempre ti accogliamo a braccia aperte. E che lo so, certo che lo so. No, poi fino a che tra l'altro questa anche la CF è in procinto di andare via, perché lo dovrei vendere appena mi arriva il bonifico sul conto, e quindi poi a Malagana, almeno fino a che non la cambierò la radio, continuerò con il Lincoln e quindi sarò molto ma molto più presente sulla 27 che sulle altre bande, perché con questo posso spostarmi solo sino ai 30 e sotto non ci va chiaramente. Cosa stai vendendo? Il Mark 5? Sì, ho un'idea e la voglio portare avanti, però intanto mi premeva venderlo e non svenderlo, come ho avuto modo di parlare con Claudio e commentando un po' tutte quante le varie questioni che sono legate alle compravendite delle radio. E dopodiché con molta serenità prenderò la decisione sull'acquisto della radio. Ho già pensato a cosa prendere, però voglio essere anche sicuro di non mettermi in altri problemi, anche perché insomma bisogna fare una spesa non indifferente, è meglio farla con i piedi per terra, ecco, non voglio ci siano altri casini in mezzo, quindi voglio essere prima tranquillo anche da un punto di vista lavorativo e avere certezze, e non si sa mai perché mi trovo con la radio e morì in esagana. Sì, questi tempi che corrono, non c'è da stare molto attenti a fare spese, se fai bene adesso i piedi piombo. Vabbè, io ti faccio i migliori auguri allora, davvero ciò che desideri, dai, e che senza problemi soprattutto. No, infatti non sono il tipo che... Tanto mi interessava, ecco questo, venderla e non svenderla. Dopodiché sono disposto a farla la spesa, però voglio essere tranquillo e sereno, perché non sono il tipo che si butta le cose. Non mi piacciono le improvvisate, capito? Tutto. E quindi, siccome stiamo parlando per i soldi, meglio farle con molta attenzione sempre. Penso che sia un discorso generale e condivisibile da tutti. Berzio Cla. Io che cosa ti ho detto, Salvatore? Io anziché spenderne 4 ne ho speso 2, anche perché non è che sono andato così male, quindi alla fin fine sono contentissimo, anzi più che contentissimo, e quindi mi sono messo in cuccetta agli altri 2, perché alla fin fine per volerlo, il 3000 come lo volevo io, te lo detto, eravamo sul 4, 4 e mezzo, quindi non è il momento di giocare con il denaro. Ho trovato questo, la metà già completo, quindi quarto fermo saltato, il filtro meccanico, il doppio VFO automatico, questa è una bestia, non sono contentissimo. Io prove tecniche fatte, ascoltando i radioamatori dei 40 metri, non ha il Mark 5, non ha niente più di questo, quindi non proprio zero sotto zero, anzi c'è chi apprezza più il 1000D, cioè il 1000 Mark 5, quindi proprio perché queste sono le cose. Come strumento poi non ne parliamo, la tecnica che ha questa il Mark 5 non ce l'ha, anche se è uscito dopo. Però io non sto bene così, Salvatore, sto bene così, senza dirti che sono pronto a prendere un'altra, non è che mi piace molto il 75-6-3, quindi molto probabilmente prenderò anche quella, non me ne frega niente, però per il momento sto bene così, ho risparmiato 2000 euro e va bene, non è il momento come hai detto tu di giocare col denaro, perché non si sa mai, però quei 2000 euro adesso ordinerò la Ultra Beam e qui siamo arrivati, tutta elettronica, accordamento senza bobine, accorda direttamente dal control box, come i cambi di banda, lo sai come funziona la Ultra Beam, no? Si stringono e si allargano i radiali automaticamente, e con quella sono arrivato, anche perché quella costa 1600-1700 euro, quindi ci rientro giusto, e per il momento mi fermo così, poi molto probabilmente a metà anno o prima di fine anno, mi piace molto il 756 Pro 3, verserò sicuramente il 7400 e prenderò quello. Questo è il mio programma di quest'anno appena iniziato, però per il momento sto bene così, Salvatore. Fai benissimo, no. con calma, perché le radio si possono sempre acquistare, però se si segua fatiche i problemi non se ne vanno via in altrettanto modo, non altrettanta velocità, per cui bisogna sempre meditare ed è giusto che si facciano i ragionamenti in questa maniera, assolutamente. E poi tra l'altro pensa che ieri stavo facendo guardavo un attimo sul sito internet, stavo facendo la comparazione a proposito di antenne, la V2000, capito, nel sito di Media Globe, e c'era, era appena arrivato dalla mattina, un ICOM 7800, lo davano 5840, seconda mano, perfetto, mai aperto, mai modificato, bla bla bla bla bla bla, il controllo stamattina già venduto. No. Cioè, cosa serve prendere un 7800 quando fai le stesse cose con la mia e con la tua? Cosa serve? Non ho capito. 200 volte ce li abbiamo, filtro meccanico, quarto termosaltato, doppio VFO con sub sia a destra che a sinistra, cosa serve? Non serve a niente, perché ho fatto quel ragionamento, ma perché devo prendere il 3000? Cosa mi serve il 3000? Perché c'ha queste cose che salgono e scendono, non me ne ha fatti nulla, non sono handicappato, capito? Quindi mi interessa, perciò cosa serve? Non serve niente, non serve niente, serve avere una radio, ma non serve avere la radio, serve avere le antenne, serve avere le antenne, credimi, questa sera in 10 metri, stavo andando con 7004, l'amplificatore attaccato, ho detto, ma perché devo consumare corrente quando ho il 1000 che fa la stessa cosa? Ho buttato l'antenna al 1000, ho fatto la Bolivia 5,9+20 senza nessun problema, antenna sopra e su chi andiamo, a cosa serve? Non serve a niente, a cosa serve? Le antenne ci vogliono per fare cose, non ci vogliono le radio, perché io sento ultimamente, stanno usando tutti in HF e Salvatore, radio di vecchia generazione, ma proprio di vecchia generazione, non come il 1100 io, 1100 tu, ancora più vecchi, ancora più vecchi, tu senti, stanno iniziando a uscire le linee Drake, i Tentec vecchi, i valvolari, è pieno di 440, è pieno di 430, qualcuno ha sentito addirittura col 140, col 751 America, con cosa devo dire, con la vecchia linea GSC che l'ho usata nel 1980, capito? Quindi cosa serve? Però tu li senti, sono tutti 59+30, 59+40, con amplificatori sotto e antenne mastodontiche, monobanda, tre elementi che fanno paura. Le antenne ci vogliono per fare radio. Cosa cazzo stiamo dicendo? Radio o non radio? Antenne. Sì, ci vogliono anche le antenne. Antenne, assolutamente. No, io infatti sono rimasto particolarmente, e poi rigiuniamo a Gianni, lo stiamo parcheggiando, rimasto ieri particolarmente contento quando ho collegato questo dell'Uruguay ieri sera, poco prima dell'ora di cena, lo stesso, un ottimo segnale, sentiva benissimo, contentissimo, perché sono contento, perché comunque tutto sommato io sai come sono messo come antenna, però con questo loop che ho fatto lì attorno al palazzo, insomma, credo di averla migliorata la situazione di ricezione e di trasmissione. No, sono contento. Ah, ecco cosa che ti volevo dire. Proprio quando è? O ieri o avantieri, che ho sentito in 80 metri. In 80 metri ho sentito questo qua, stava trasmettendo. Oh, scusate, stava trasmettendo proprio con un 1000. Con un millone. Con un millone stava trasmettendo. Era contento. Bella corposa è la modulazione. Bella corposa. Nulla da dire. Gianni, a tua. Giorru, cazzo dormito dici? Faccio venire il sonno io a Gianni, da sempre. Ecco, dove si è lottato per prendersi un bicchiere d'acqua. Luca si starà ancora rinfrescando fuori. Poi stava riscaldando, cosa che doveva fare? O si è andato a fumarsi una sigaretta fuori. E quindi sì, ho già. Belle. Assolutamente belle. Tra l'altro la vendita delle radio, per come sto iniziando a pensarla io, credo che oramai ci siano molte più radio di persone a trasmettere dietro, Io non fatto, ho letto, a me piace molto il 756 drop, l'ultimo. Una bella radio, 7 canti, mi piace moltissimo, poi c'è 50 mega, quindi non rimango scoperto, userò il 780 in V&U, anche perché non è che mi interessi più di tanto, i 50 mega li faccio con un 3, sicuramente, ma non adesso, adesso entro l'estate compro l'altra B, perché sono abbastanza di soldi, quindi compro l'altra B. L'ho detto, come avevo detto per la radio, ho detto per questo lo faccio così, finisce il calvario di chi mal mi vuole, capite? Parole povere, conto l'altra B da quassù e poi vediamo se cantiamo in italiano o cantiamo in francese. Bassa, senza tralicci, senza niente, la monto come dico io, la piazza come dico io, no? Stai col certo che non ci siano problemi. Ma va tutto bene. Metto, mi faccio fare in officina da me un bel palo di quello ascensore, sellato al muro, antenna leggerissima, rotore, metto un G400, un G450, che quello l'ho già praticamente preso, Dopodiché vediamo un po' com'è la situazione. Monto solo quella senza fare grandi cose. L'altro traricetto che ho, mini traricetto, lo lascio con l'antenna dei 10, quella dei 6 metri e quella del VHF, lo lascio stare così com'è, non tocco niente. Sull'altro lato mi monto solo la Ultra Beam, deve girare da sola e basta. Dopo li faccio come dico io, non ho bisogno che mi dicano quello che devo fare gli altri. Se poi ho problemi per il montaggio, c'è chi mi dà dei suggerimenti come Marco e altra gente, ma su di quello no, per il resto va bene così. Vediamo un po' se è rientrato Gianni. No, riprendi Salato, sì, l'ho sentito in 80 anch'io, non mi ricordo come si chiama, non l'ho segnato, stavo usando la FT1000 di però lui il microfono non era l'MD1. Se tu senti il mio con l'MD1, quella IAESO è pauroso, una timbrica allucinante, molto molto forte, ma con un effetto presenza al naturale. Mi ha fatto i complimenti Tonino, GUO, che io non l'ho mai cagato, nulla più, nulla. Sono entrato a salutare a Franco di Lavigno. C'era anche lui, mi ha detto ammazza che radio, ha detto che cosa c'è, perché non va bene, problemi, mi ha detto veramente stai uscendo con un effetto presenza naturale, fortissima, bella, proprio da mi ha detto veramente molto bella, senza sapere che radio stavo usando. Lui mi ha detto, ma che radio stai usando? Ho detto l'FT1000D, ah, e mo ci siamo. Ma a proposito di antenna, hai valutato eventualmente anche una delle antenne dinamiche, quella del corpo di antennadinamica.com? No, io mi è piaciuta quella lì perché l'ho vista la Walter, è molto bella, leggera, senza bobine, c'è l'accordo automatico di banda, quindi quando tu comandi al control box 20 metri, le stringe, allarga, è molto leggera, meno pericolosa delle altre bobine, per la testa che ho io, flette moltissimo col vento, i radiali, quindi per me va bene quella, ha un costo molto molto alto perché credo che sia inserita in una delle migliori antenne di categoria, le Ultra B, però sono costosissime proprio perché hanno questo riferimento che è quello di lavorare col control box e quindi accordare man mano che tu cambi la banda, quindi è un'antenna eccezionale. Per la mia altezza preferisco quella perché ti ripeto, leggera, flessibile, lavora molto bene col vento, mentre le altre bobine sono sempre molto pericolose per la mia altezza, Salvatore. Io rimarrò sempre con l'eterno problema qua dei gabbiani, cornacchi e piccioni. Il giorno che tolgo la verticale per provare un'altra configurazione d'antenna, devo pensare molto bene, che rischio di vedermela piegata il giorno dopo con tutti gli ospiti che svolazzano qua attorno. Poi tra l'altro abbiamo una signora qui al quarto piano al palazzo di fronte, quindi sotto il giorno senti dopo pranzo pa pa e dall'altro lancia nel piazzale per la felicità dei gabbiani, cornacchi e quant'altro, avanzi di pollo, coscette e quant'altro, una zozzona. Fatto sta che è diventato lo specchio e il parco di divertimenti di questi volatili, quindi lo sanno attenzione a ci svolazzano tutti attorno. E che ci vuoi fare? Avrei buttata quella dal quarto piano, ma non si può fare. Comunque, e quindi sono molto, molto restio a cambiare con un'antenna che abbia, diciamo, una proiezione orizzontale. Penso che me la ritroverei, ripeto, a pezzi o piegata in due il giorno dopo. Ma te ancora altra. Sì, chiaro, osservatore. Va bene, donna, sono donna, anch'io vivo in mezzo ai piccioni, ai colombi e alle cornacchie, e quindi però ogni tanto salgo su, controllo. L'altro giorno avevo un pochino più sceso rispetto all'altro, per dire dell'antenna dei 6 metri. Pian pianino l'ho riaddrizzato, comunque è abbastanza rinforzata l'antenna, perché la prima volta che l'ho montata me l'hanno completamente staccato il radiale del balum, quindi l'ho rimesso a posto, scesa, forato nuovamente, messo un bulloncino passante sulla scatola del balum con un rondellone, e adesso sembra che tenga molto di più, perché come si appoggiavano balla a balla mi hanno staccato l'attacco, la rame praticamente del balum, e quindi l'ho rinforzata. Vabbè, mi chiamano quindi sabato, tanto ho detto che devi staccare, io mi allontano da qua, se magari il progetto altrimenti niente, ti saluto, grazie delle due chiacchiere e niente, io a volte mi sposto a 5,50 e non rimango molto a 5,25, mi sposto a 5,50, faccio due chiacchiere con Antonio, con Jax e altri amici. Ok, va bene, quindi ripasso il microfono a te, ascolto il finale e poi mi sposto. A te, Sabato. Eia, sì, anch'io devo chiudere, per cui coincide perfettamente il timing, coincide. Mi ha fatto già accenno mia moglie, è ora. Spegniamo e chiudiamo le trasmissioni. Ok, grazie a te della chiacchierata. Buon proseguimento se ti sposti. Io faccio QRT e me ne vado invece a Nanna. Buon proseguimento nel caso se senti qualcuno che conosco anch'io. Porgi saluti da parte mia. Stavi bene, Cla. Buon proseguimento di serata e buona nottata. Ciao, a presto. Ciao, Salvatore, ciao, Claudio. 12 e mezza dormito, quindi sono già 10:30. Chiudiamo qua le trasmissioni. Ciao Gianni, ciao Salvatore, alle prossime. Buonanotte. Ciao. Gianni. Ia. Ma hai avuto uno svenimento? Colpo di sonno. E che diavolo, cioè ti è durato insomma mia, roba di averti alla guida Colpo di sonno, incidente col letto. No, quando guido io sono tranquillo, guidate anche notte a fondo, non ho mai sgamato. Ok, comunque già sei arrivato giusto per sentire anche i saluti anche per te, io stavo chiudendo. Buon proseguimento di serata e buonanotte se hai deciso di abbassare definitivamente le palpebre. Salutoni a tutti quelli che ci stanno ascoltando qua sul 5, QRT da parte mia. Ciao ciao Gianni, ciao Claudio. Ciao Sabato, buonanotte, ci sentiamo. Avanti caro. Claudio ha chiuso, io è rimasto. Forse rientrerà Luca. Proviamo sperando. Luca, ci sei. Ciao Gianni, sto spegnendo, ciao ciao. Ciao Sabato, ciao. Grazie Gianni, grazie perché ci ha visto sempre in ritardo. Chi ha finito di ascoltare si fanno le orecchie lunghe. Va meglio. Piano piano, ci prendiamo. Ciao Gianni. Anche tu dovresti farlo, vero? Impianto. Erano guasti. Cosa? Sì. Sono tre. No, buono, non lo so, nella mia via non lo so se lo conosci. capo della portamine, va bene. Vabbè, il più è fatto, prendiamola con comodo. E la cosa non è lunga, è lunga. E non so, fa presenza anche per masticare. E tutto qua, qua. Ma c'è problema. Antonio, ci sei? Però non ce l'ha, ce l'ha. Io vi saluto e vado a letto. Buonanotte a tutti. Ciao, ci sentiamo, buonanotte a tutti.